Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata con Mina e con le mille bolle blu. Beh, entriamo subito in argomento, parleremo di bollicine e quindi non credo che sia la canzone più adatta per dare il via a questa trasmissione. Ricordo chi volesse intervenire, perché penso che oggi saranno tanti, lo vedo dal sito Gastronauta, dove ci sono tantissimi interventi. Tra l'altro c'è un radioascoltatore che dice: ah, sono a lavorare, non posso ascoltare. Ebbene, la troverai registrata sul sito di Radio 24, niente paura. Numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Bene, parleremo di bollicine perché il presidente del consorzio di Franciacorta di OCG, anzi per il consorzio è Franciacorta solo, di OCG sono le bolle appunto di cui parleremo, ha detto basta. Non dobbiamo più usare questo termine, perché è improprio. Tra l'altro sono andato a vedere sul vocabolario, la parola bolla assolutamente non fa riferimento mai al vino, mai ai vini, ma semplicemente alle bolle di sapone. Quindi bollicine non esiste. Io prego D'Adamo, che è un bravissimo ricercatore che ogni anno fa questa pubblicazione sui nuovi termini e i nuovi neologismi, la prossima volta di metterlo, perché ormai esiste e in tanti, nonostante l'intervento di Zanella, lo usano, e come secondo me sarà molto, ma molto difficile cancellarlo appunto dal linguaggio normale. Ma perché Zanella se ne è uscito in questa maniera? Bene, non è solamente un fatto di del termine, ma sotto c'è qualcosa che riguarda appunto i territori, c'è qualcosa della difesa di alcune produzioni, e lo vedremo. Però io voglio subito far parlare alcuni miei ospiti, a cominciare da Angelo Peretti, che è direttore di due consorzi di tutela del vino, nonché ha un sito dove diciamo che interviene sempre con molta oculatezza e con molta tranquillità, quindi senza polemiche ma con molta intelligenza. Buongiorno Angelo. Buongiorno Davide, troppo buono con me. Allora, cosa ne pensi? Ma io faccio obiezione di coscienza, io bevo bollicine e continuerò a bere bollicine, mi piace troppo questo termine che trovo di grandissima simpatia nel parlare gergale, nel parlare quotidiano, nel parlare della gente che beve il vino. Poi non ha torto Zanella quando dice che bisogna che siamo più attenti a mettere in luce il nome della denominazione. Io ci credo tantissimo, nel grande patrimonio delle denominazioni d'origine che abbiamo in Italia, quindi è giusto dire: che bollicina bevi? Bevo un Franciacorta. Ci sta, ma bollicina è il termine degli appassionati dei vini con le bolle, Franciacorta è il nome di una grande, straordinaria denominazione di bolle italiane. Del resto anche gli americani, quando parlano di champagne, parlano di bubbly wines, di vini con le bolle, e mai e poi mai confonderebbero uno champagne con un bubbly qualunque. Ecco, ricordo, numero verde 800 24 00 24. Ma Angelo, io sono molto malizioso, io credo che dietro questa presa di posizione ci sia un altro discorso che tu conosci bene, cioè prendere le distanze dal resto della produzione italiana da parte di Franciacorta. Direi proprio di sì, e in questo io l'ho anche scritto, insomma, cioè voglio dire, Maurizio Zanella è un grandissimo comunicatore, oltre che un grande produttore, insomma, gli va riconosciuto. Indubbiamente è riuscito a far parlare di Franciacorta come del grande vino italiano da fermentazione spontanea in bottiglia, chiamiamola così. Devo dire, disciplinare del Franciacorta dà una definizione un po' contorta del vino, dice: vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante sboccatura rispondente alle condizioni e requisiti del disciplina. Cioè, fa venire il mal di testa una roba del genere, sembra una ricetta da farmacia. Invece è così bello trovare il territorio, le torbiere della Franciacorta, il lago di Iseo, trovarli dentro la freschezza di questo vino. Sono qui che faccio promozione perfino al Franciacorta, pensa. Beh, un po' oggi. Grazie Angelo. Ebbene, ora passiamo a un altro ospite che abbiamo, è Franco Zigliani, che viene definito un partigiano di Franciacorta. Zigliani, tu cosa ne pensi? Buongiorno a tutti. Ma io non sono un partigiano del Franciacorta, sono sostenitore della qualità dei metodo classico italiani ha denominazione d'origine, e quindi credo, visto che in Italia, a differenza dalla Francia, abbiamo una serie molto più ampia di territori che producono vini con la tecnica codificata in Francia del metodo Champenois, dobbiamo abituarci, senza banalizzare, a chiamarli con il loro nome. Visto che abbiamo delle denominazioni specifiche per questo tipo di vini, il consumatore e soprattutto noi comunicatori dobbiamo abituarci a chiamarli esclusivamente con il loro nome, quindi non chiamarli banalmente spumanti, perché definire spumante un Franciacorta, un Trento DOC, un Montepò Pavese, ma anche un Prosecco superiore di OCG è banale, perché vuol dire mettere nello stesso contenitore prodotti profondamente diversi. Quindi dobbiamo abituare il consumatore a chiedere il prodotto con il proprio nome. In Francia nessuno si sogna di andare a denominare uno champagne piuttosto che un crémant di Borgogna o d'Alsace o Jura bollicine. Lo chiamano champagne, o se vogliono bere un crémant bevono un crémant d'Alsace. La stessa cosa in Francia. Non si capisce perché in Italia noi continuiamo a permanere nell'equivoco chiamandoli questi prodotti che denotano un territorio, che hanno un nome di denominazione ben chiaro, con un termine che va bene per le bevite gassate, va bene per l'acqua minerale, va bene per qualsiasi altro prodotto. Mi pare che un metodo classico prodotto con minimo 18 mesi di permanenza sui lieviti, come è il caso del disciplinare della Franciacorta, meriti ben altro. Bene, grazie anche a Franco Asiliani. Ora abbiamo tanti radioascoltatori. Isidoro da Vicenza, buongiorno Isidoro. Buongiorno, io sono... Pronto? Sì, prego, prego, parli. Buongiorno, io sono un produttore di un metodo classico sui Lissini, zona tra Vicenza e Verona, vocazione spumantistica. Ma io francamente ritengo che il problema di evidenziato sia parta più da un problema di mercato, di confusione che la bollicina può identificare tutta la bolla italiana. Io sono convinto che bisogna abituare il consumatore a capire la differenza fra una bolla e un'altra bolla, anche se quando si va al bar e si chiede una bolla, il barista ti chiede sempre, non la sbaglia mai per un'acqua minerale o per una Coca-Cola, ma intende benissimo che è uno spumante, che poi possa essere un prosecco o un metodo classico, ma di quello stiamo parlando. Quindi io non lo bandirei come nome, ma cercherei di approfondire quello che è il prodotto e l'identificazione di un prodotto. Secondo me sarà molto, ma molto difficile. Comunque ci si può anche provare, perché mi sembra che tutti gli interventi vadano in questa direzione, cioè che bisogna specificare. Bene, speriamo che ciò avvenga, ma io credo che il linguaggio è difficile da cambiare in poco tempo. Numero verde 800 24 00 24. Il gastronauta. Franciacorta di OCG, spumante Trento DOC, oltre Po Pavese, ecco, questo è il punto. Abbiamo già sentito che tutti dicono bisognerebbe, però io ritengo che sia molto difficile. Comunque ci proveremo tutti, forse dovremmo essere i primi noi che facciamo comunicazione e informazione. Numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Roberto d'Ascoli Piceno, buongiorno Roberto. Buongiorno a voi, salve. Niente, io sono intervenuto perché volevo dire, insegno enologia presso una scuola enologica e quei ragazzi hanno problemi di comunicazione tramite l'ordine del giorno. E io mi sento sostanzialmente d'accordo con quanto detto, bisogna valorizzare più i vini di territorio, il terroir, la parola spumante, perché abbiamo la radice storica, però cercando un po' negli studi l'origine, la parola bollicine, che non mi piace, però insomma che funziona, la troviamo già presente negli scritti di Lucano, un poeta romano nel 49 d.C., che faceva riferimento a bullule, nel senso per rendicare i vini non fermi, ancora con presente la CO2 svolta. Quindi c'è una radice storica, cioè, non di meno non mi piace il termine, perché sono d'accordo con quando si diceva, valorizziamo spumante. Ad esempio io ho avuto contatti con amici e colleghi stranieri, purtroppo il concetto loro legano troppo il discorso spumante come sinonimo di vino spumanteggiante, frizzante ma dolce, in contrapposizione alla parola champagne, che nell'ignoranza così è indicato come nome di un vino diciamo, smeggiante, però sì, cioè, molti consumatori non dei più informati, ormai a livello anche dei grandi mercati anglosassoni, pensano che champagne significhi vino spumante secco, a prescindere dalla provenienza, e spumante vino frizzante, dolce. La stessa cosa per il Chianti, loro pensano che Chianti sia vino rosso in italiano, insomma. Bisogna lavorare molto sul marketing e poi rispettare ovviamente poi i termini, lo fanno anche il consumatore, lo sceglie quando utilizzare. Beh, lei ha fatto una ricerca storica molto indietro, l'ho fatta anch'io sulla Treccani, addirittura Treccani bolla, bollicine, viene derivato dallo sgorgare delle terme, quindi viene riferito a quello. Vabbè, comunque lasciamo perdere questi discorsi magari terminologici e torniamo al succo, al dunque. Io lo faccio con il presidente mondiale di sommelier, visto che lei ha parlato di Francia, ha parlato di altro, uno che ultimamente è intervenuto spesso sulla parola spumante. Buongiorno a Franco Maria Ricci. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno. Franco, tu che... Eccomi qua. La parola spumante, il termine spumante. Ma no, io ho fatto un pezzo su Bibetta 7, così meditando, ma con il cuore soprattutto, no? Pensando alle bollicine mi è venuto in mente il morbillo, la varicella, sta roba qua, e quindi ho detto, ma perché uno spumante come, non so, Anna Maria Clementi di Via del Bosco, oppure un Trento Ferrari, oppure che ne so, un Vittorio Moretti possa essere chiamato bollicine? Per me comunque è una diminuzio, ecco. Però insomma, poi alla fine la legge dello Stato, poi tra l'altro mi sembra che ancora non ha cambiato il termine. Io ho visto la nostra guida stamattina, perché non me lo ricordavo se era cambiato o no, ma ho visto che come tipologia di vino, poi tutti i vini che in qualche modo hanno sono spumanti, si chiamano spumanti. Poi è chiaro che i territori per me sono la cosa più importante, e io che i miei, tutti insegniamo noi ai nostri corsi, che il Trento DOC è Trento DOC, che la Francia Corte è Francia Corte, che il nostro paese è il nostro paese. Quindi è chiaro, ma è difficile dire alla signora Rossi, cavolo, che si chiamano così ancora oggi. Noi purtroppo 7 milioni di persone forse capiscono la differenza, 53 non sanno neppure che cos'è, quindi lo chiamano champagne. Io ho sentito un famoso TG1 del 2010 alle ore 8:30, mi raccomando, il telegiornale, il giornalista che dice, mi raccomando, quest'anno beviamo champagne italiano. Questo è. È un bel lapsus freudiano, proprio l'ultimo dell'anno. Ho capito, questo succede nel nostro paese, questa è la cultura del nostro paese, punto, è tutto qua. Rimani allora, con noi. Decidiamo come chiamarlo. Sì, rimani con noi. Fernando dalla provincia di Siena. Buongiorno. Dalla provincia di Siena, buongiorno. Innanzitutto ascolto sempre la sua trasmissione su Radio 24. Bene. Perché sono un appassionato di ristoranti. Non so se conosce la cantina Gavioli. No, non la conosco. Allora fa uno spumante, che poi è uno champenois, di 36 mesi di invecchiamento, e credo che è uno dei migliori a livello Italia. Sì. E io mi permetto, siccome sono un collaboratore della cantina Gavioli, di farsi pubblicità. Bene, grazie Fernando, ma non può parlare però di champenois, perché la parola è bandita anche questa. Lei la deve chiamare metodo classico, quindi se vogliamo chiamare tutto con i propri termini, chiamiamo tutto con i propri termini. Grazie Fernando dalla provincia di Siena, numero verde 800 24 0024. Ora abbiamo un altro ospite, un giornalista, critico del, diciamo, sulla pagina del giovedì dei vini, che è Paolo Massobrio. Buongiorno Paolo. Buongiorno, ciao Davide. Volevo sapere cosa ne pensi di questo, diciamo, intervento a gamba tesa di Maurizio Zanella. Ma io credo che una cosa analoga abbia tentato di farla Mussolini molti anni fa, ma con scarso successo, per togliere alcune parole dal vocabolario. Noi dobbiamo arrivare a una sintesi, evidentemente, come c'è in altre regioni, e dare un nome a questa tipologia. Spumante, quello sì, è desueto, forse è superato, ma dopo un po' dire che è desueto anche il termine bollicine, che tutto sommato è simpatico e individua una tipologia di consumo, mi sembra un po' esagerato. Nel sogno di Zanella probabilmente c'è l'idea che tutto si chiami Francia Corta, e che in Francia un giorno dicano, brindiamo col Francia Corta francese come noi diciamo brindiamo con lo champagne italiano, ma questo credo sia impossibile, anche perché la storia è andata avanti in un altro modo. Bene, sentiamo Annunziato da Genova, un radioascoltatore. Buongiorno Annunziato. Sì, buongiorno. Io in merito alla questione avrei un'altra prospettiva, perché comunque dipende anche il luogo dove si va a consumare, che sia lo spumante, che sia un metodo classico. perché tipo a Genova andiamo al ristorante, chiediamo Franciacorta, chiediamo un Trento, andiamo in certi bar e diciamo così a livello di scherzo, diciamo mi dai una bolla trentina, una bolla bresciana, e lui il barista capisce cosa vogliamo, che vogliamo senza dire i nomi delle marche, che la sappiamo tutti, diciamo, come la Berlucchi, vabbè, lo dico tanto per far capire. Mentre al ristorante uno chiede proprio il tipo di vino, anche quello dipende, una conoscenza che ha del vino e tutto qua. Bene, grazie Annunziato da Genova. Voglio tornare a Franco Ricci, gli voglio chiedere questo, quello che ho detto prima. Sono malizioso, cioè credo che Zanella abbia voluto alzare il tiro e dire: signori, Franciacorta di OGG è diverso da tutto il resto. Tu cosa ne pensi? Ma è certo, tutti i territori sono diversi da tutti, e poi ci sono produttori di qualità e produttori di meno qualità. Cioè noi giudichiamo il vino nelle nostre aule dei corsi attraverso la qualità, quello è. Ora Franciacorta ha una stratificata qualità, questo possiamo dirlo. Trento DOC ha 7-8 aziende che noi valutiamo in eccellenza. Che ne so, dico che è chiaro che il territorio fa sempre la grande differenza. E poi io ho un problema con 10-12.000 persone l'anno al quale devo scegliere come chiamarlo, no? Quindi a proposito di bollicine, Paolo ovviamente dice bollicine, ma che è anche divertente. Io purtroppo non mi diverto, non posso insegnare il divertimento, io devo insegnare una nomenclatura più vicino, perché io non posso chiamare, non mi sento di chiamare Paolo Trottolino Amoroso, perché non lo è una persona importante, Paolo Masoppio, quindi mi rendo conto che la terminologia non va bene per me che insegno il vino e bollicine. Devo trovare un'altra via. Al momento è spumante perché la legge dello Stato ancora non è cambiata. Laddove non riesco a far penetrare il termine Franciacorta o il termine Ferrari o Trento DOC o Vatte la Pesca. Tutto qua. Beh, quindi tu dici che per ora è spumante, quindi se diciamo si dovesse usare legalmente dovremmo usare spumante. Però... Attenzione, quando io devo individuare un termine per far capire che quella bottiglia contiene un vino che spuma, che ha le bollicine, io posso usare benissimo il termine spumante. Puoi fargli capire esattamente un mezzo secondo dopo che quel vino è di Franciacorta, che è la Franciacorta, e gli spiego, questo così faccio nelle aule dei corsi, e gli spiego che cosa vuol dire Franciacorta, che similmente allo champagne prende il nome sia dal territorio che la bottiglia prende il nome dal territorio. Comunque va insegnato, ragazzi, perché 53 milioni di italiani non sanno neanche che cos'è il vino. Sì, sono d'accordissimo con te, però bisogna anche, diciamo, entrare un po' ad allargare il tiro. Cioè quando a fine anno si fanno i calcoli e si dice in Italia si sono prodotti 360 milioni di spumanti e in Francia se ne sono prodotti 320 milioni, quindi abbiamo battuto la Francia 2-0, cioè dentro questa cifra va di tutto, certo. Franco, bisognerebbe fare un distinguo su questo, permettimi. Se noi vendiamo il prosecco, anche lì il discorso delle aziende di prosecco fanno del buon prosecco. Indubbio. Che viene esportato a mezzo euro, come fa? Quello è sempre spumante, perché è fatta è la lavorazione, il concetto che dobbiamo avere. È chiaro che è così. Noi vendiamo 300 milioni di bottiglie di spumante, perché certo. È fatto con spumante, non è un vino tranquillo. Questa è un'altra terminologia ancora, è anche un altro momento per colloquiare con la persona che abbiamo davanti, e dipende con che cosa stiamo dicendo. È chiaro che è carino dire: mi dai quella bolla trevigiana, quella che diceva prima il ragazzo che ha telefonato, bellissimo anche quel termine. Bisogna vedere in che modo noi stiamo parlando di questa bottiglia. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, io intanto ringrazio per il trottolino amoroso. No, voglio aggiungere questo, mai il trottolino amoroso, perché tu sei qualcosa di più. Nella misura in cui la gente, cioè il popolo, chiamiamolo così, un vecchio termine desueto ma che esiste, individua un nome, io non sprecherei tanto tempo a fare i maestrini, i professorini, a dire no, non lo devi chiamare così. Lo individua così e dice la bollicina trevigiana e dice no, e quindi il popolo stesso ha superato il concetto di spumante, anche se ha ragione Franco Ricci, noi nella legislazione abbiamo quel nome lì. Però Maurizio Zanella, al di là di tutto, è un grande uomo di comunicazione, ha fatto un'operazione di comunicazione e sta facendo parlare da 10 giorni del Franciacorta, quindi chapeau per la sua missione di affermare il vino della sua terra. Fra un po' lo ascolteremo e gli chiederemo se è stata un'operazione di comunicazione, e quindi gli è praticamente riuscita, perché anche oggi ne stiamo parlando. Però devo dire che vedo che sul sito Gastronauta arrivano continuamente dei messaggi e tutti sostengono che Bollicine è troppo bello, perché è un termine molto, molto colloquiale, molto simpatico e molto leggero. Quindi credo che bisogna prendere punto anche da quello che decide il linguaggio comune, perché poi alla fine quello che conta è cosa dice la gente al bar o mentre discorre tra di loro. Il resto diventa un po' tutto molto, diciamo, professorale, come è stato detto. È evidente che nelle aule bisogna insegnare, bisogna distinguere. Poi e dopo quello che succede giorno per giorno è tutta un'altra cosa. I giorni di festa sono una cosa, i giorni quotidiani invece sono un'altra. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il Gastronauta. Eccoci di nuovo, Bollicine, bolle, le mille bolle blu abbiamo sentito. Sentiamo Guido dalla provincia di Cuneo, un radioascoltatore. Buongiorno Guido. Buongiorno Davide, chiedo scusa, un po' di fiatone perché sto pedalando nella Langa Monregalese. Si fermi un secondo. Comunque, allora. No, sono fermato. Senta, ma lei nella borraccia c'ha le bollicine? Che... Sì. C'ha le bollicine? Noi abbiamo l'Alta Langa. Certo. Ma comunque era per dire che trovo un pochettino bizantina questa contrapposizione. Secondo me il termine bollicine oppure spumante può definire il genere, e poi si dice Franciacorta per definire la specie, o Trento Doc, possono essere benissimo associati, non devono, tanto non si va contro la storia, ormai sono entrati nell'uso comune sia spumante che bollicine, non vedo perché abolirle. Bene, Guido, poi ci vuole un po' di precisione. Guido, io la ringrazio, mi raccomando cioè vada tranquillo, perché sento che c'è un bel fiatone e beva poco dalla borraccia. Bene, ma quello che lei ha sostenuto è anche un sms di un radioascoltatore che puntualizza. Il vero punto è che il termine spumante indica una caratteristica del vino, il nome è un'altra cosa. Secondo me si deve aggiungere la provenienza per precisione, ma non eliminare una caratteristica. Bene, ma visto che abbiamo parlato, abbiamo nominato il consorzio di Franciacorta, Zanella, mille volte, finalmente abbiamo Maurizio Zanella. Buongiorno Zanella. Buongiorno a tutti. Allora, ma questa entrata che io ho definito gamba tesa, insomma, come uno stopper di una volta, ma molti dicono è stata fatta per riattirare l'attenzione sui vini di Franciacorta, è così? No, primo non sono rosato perché avevo un altro fisico, e secondo non è marketing, o come qualcuno amabilmente mi ha descritto come esperto o approfittatore di una certa situazione per far parlare di Franciacorta, non è questo lo scopo, e non è un dogma, e non è dogma soprattutto per i consumatori. Io credo che il mondo della produzione e della comunicazione abbia delle responsabilità, come diceva Franco Ricci poc'anzi, nel insegnare e fare cultura. 20 anni fa, quando la Franciacorta decise di non chiamare spumante il proprio vino, fu colpevole dell'introduzione del termine bollicine. Nasce proprio dalla Franciacorta che, non avendo ancora una conoscenza sul mercato, aveva bisogno di un sostantivo per farsi riconoscere, e iniziamo a chiamare bollicine. Quindi non stiamo facendo né un dogma, né io sono Mussolini o la Franciacorta vuole essere Mussolini. La Franciacorta vuole fare cultura e vuole portare al consumatore l'abitudine di chiamare il vino per quello che è, così come per il Brunello o il Barolo o il Barbaresco, raramente sento dire che è un vino rosso. È chiaro che parliamo di un vino spumante, perché questa è l'unica tipologia per legge che raggruppa merceologicamente i vini, ma i vini non sono più merceologici, i vini sono espressione unica, i vini di qualità, parlo dei vini di qualità, sono solo e unicamente espressione di un territorio, e dobbiamo smetterla di usare aggettivi e sostantivi che ne indichino e li massifichino. Bene. Dobbiamo fare cultura, e quindi abbiamo la necessità di comunicare, non il consumatore che deve usare bollicine, spumante, può usare quello che vuole, e per dimostrare questo, Astra, noi abbiamo commissionato a Astra ricerca, una ricerca sul consumatore, quindi parliamo sul consumatore che non ha una cultura specifica. I marchi più noti sono i marchi che non hanno la parola spumante, sono Prosecco, Franciacorta e Champagne. Perché? Perché si sono saputi identificare sulla provenienza. Perché Prosecco non usa la parola spumante, perché Franciacorta non usa la parola spumante, perché Champagne non è un vin mousseux. È chiaro che merceologicamente è un vin mousseux, come diceva Zigliani, ma nessuno si sogna di chiamare lo Champagne vin mousseux. E quindi ci chiamiamo i nomi per quello che sono, i vini vanno chiamati col nome del territorio. Questa è una missione che chi fa cultura, quindi i produttori e i comunicatori, devono fare, e non è, ripeto, un dogma mussoliniano. Io non sono Mussolini, io cerco nel mio piccolo di crearmi dei problemi nel fare cultura. Bene, grazie, rimani con noi. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, allora io chiedo ora, abbiamo con noi Fabiano Giorgi, noto produttore dell'Oltrepò, appunto di bollicine, nonché vicepresidente del consorzio, e a lui voglio chiedere, ma Giorgi, se a lei dicono bollicine, se offende? Buongiorno Paolini, buongiorno a tutti i radio telespettatori. Allora, innanzitutto, prima di rispondere alla sua domanda, volevo ringraziarla per avermi interpellato, visto che quando si parla di bollicine, tra virgolette, quindi rimanendo in tema, l'Oltrepò non viene quasi mai interpellato, commettendo secondo me, un grave errore di comunicazione pubblica. Quindi le faccio i miei complimenti per la sua professionalità. Questa era una doverosa precisazione. Se chiamano un mio spumante bollicine, non mi offendo assolutamente, non mi offendo perché tra l'altro è una parola che mi piace, bollicine, è una parola che sta identificando una voglia di bere qualcosa di brioso, come Prosecco è identificato e sta identificando una voglia di bere qualcosa di leggero, di morbido, di piacevole, come lo champagne nella storia ha identificato una voglia comune, pubblica, di bere invece qualcosa di elitario, di classe, qualcosa di più strutturato. La parola bollicina in questo momento non è scelta da noi produttori, non è scelta dai consorzi, non è scelta dai giornalisti, è scelta dalla massa, dal pubblico, dalla gente comune, che ha trovato questo sostantivo per indicare quello che vogliono bere. Quindi io penso che sarà difficile cambiare questa predisposizione. Sono totalmente d'accordo, tra l'altro, con quello che dice Zanella, che rispetto molto come uomo marketing e come personaggio del nostro mondo. Il sogno di tutti è quello di poter identificare un territorio e di poter dare nome al prodotto che merita, però è una strada lunga, complessa e tortuosa, e soprattutto in qualità anche di responsabile in questo momento, quindi di portavoce di tutto l'Oltrepò, noi abbiamo fatto una scelta del genere con Croisé, stiamo puntando molto forte su questo marchio. Per quanto riguarda il metodo classico bianco, invece abbiamo grossi problemi di identificazione. Perché non è identificabile con l'Oltrepò Pavese, racchiude tanti altre tipologie di prodotti, certo. È un po' il nostro problema, quindi è ancora più difficile per noi, perché non sarebbe identificabile, no, l'Oltrepò Pavese metodo classico, eppure non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione, esatto. Bene, grazie Fabiano Giorgi. Ora sentiamo una cosa, Paolino. Prego. Volevo fare una provocazione finale, certo. Visto il tema della crisi in cui siamo adesso, è un tema goliardico, diciamo bello, sul quale discutere, giusto, ma bello, insomma. Quindi io chiederei che se tutti i consorzi rinunciano, o che qualsiasi, tutti rinuncerebbero alla parola bollicine, magari potremmo appropriarcene noi dell'Oltrepò per identificare il nostro comando. Ah, bene, mi sembra bellissimo questo fatto, come no? Perfetto. Secondo me sarà difficile registrarlo, ma comunque ci potete, esatto, trovare. Ci possiamo provare, ok? Luca da Trento, grazie a lei, Luca da Trento, radioascoltatore, buongiorno Luca. Buongiorno da te. Io sono un astigiano trasferito a Trento, per cui sono nato in mezzo al vino e vivo in una zona di vino. Mi posso considerare un bevitore ignorante, nel senso che non ho una conoscenza specifica, ma mi piace bere un buon bicchiere di vino. E sono d'accordo con Zanella, perché secondo me anche lo spumante dovrebbe avere una denominazione più legata al territorio. Pensiamo che solo 10 anni fa la casalinga, visto che parliamo di 53 milioni di persone ignoranti, la casalinga non sapeva cosa fosse un Nero d'Avola, adesso lo compra al supermercato sapendo esattamente che cos'è, buono o cattivo che sia. Per cui sono convintissimo che una denominazione più legata a uno specifico territorio, a una caratteristica del vino, sia sia assolutamente auspicabile. Bene, grazie a Luca da Trento. E Zanella, io devo leggere un SMS piuttosto forte. La Franciacorta è un posto pieno di autostrade, tangenziali, industria pesante, acciaierie, fonderie, bel territorio. Più che preoccuparsi del nome, bisognerebbe discutere proprio del territorio. Zanella? Sì? Hai sentito cosa ho letto? Sì, certo. Tu cosa ne pensi di questo SMS di un abitante della Franciacorta? Ha ragione. Non ci sono solo le autostrade e le tangenziali, c'è anche un territorio meraviglioso, ma è il primo punto che il consorzio ha, non è come nominare il proprio vino, ma è difendere il territorio e cercare di valorizzare le meraviglie che ha. Quindi diciamo che è un fatto importante anche questo, che giustamente bisogna difendere. Senti, l'ultima cosa che volevo chiedere, io l'ho detto prima, sono malizioso su questa tua uscita, sono sempre più convinto che questa uscita sia proprio per dire: noi della Franciacorta di OCG siamo diversi. No, assolutamente, io penso l'intervento di Giorgi molto garbato, che enuncia una problematica nella valorizzazione della loro denominazione, che tra l'altro storicamente è la più antica, è la più tradizionale, è la più estesa in termini dimensionali, nasce proprio anche da un problema di nome e di corretta comunicazione. Ricordiamoci che la Franciacorta è giovanissima, è la più giovane, ha 50 anni. Voi pensate che se una delle denominazioni più note oggi, forse il fatto di aver eliminato spumante non abbia contribuito a questa affermazione? Io credo di sì, molto. Così come è successo nel Prosecco. Quindi credo che non è marketing, è la realtà del vino di qualità. La Borgogna è la Borgogna e non c'è niente da fare, il Brunello è il Brunello, non è vino rosso che sta in barrique 6 mesi. Valorizziamo i territori. Bene, mi sembra che sia una battaglia sicuramente portata su questo, che sia una battaglia molto condivisibile. Io sull'abolizione del termine appunto vedo questo mondo, perché sul termine secondo me sarà impossibile toglierlo, e devo dire che lo trovo anch'io molto simpatico. Matteo da Verona, radioascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno Fongaro Matteo, io volevo intervenire per... Pronto? Volevo intervenire, ma mi sembra che ci sia qualche problemino. Pronto Matteo? Bene, vediamo di ripescare il nostro Matteo da Verona. E Maurizio Zanella, un'ultima battuta. E secondo te cosa succederà ora dopo che hai fatto questo intervento? Pensi che verrà meno usato Bollicine, soprattutto dai tuoi associati? Perché Italia Tavola ha pubblicato un elenco di 30 aziende della Franciacorta che usano Bollicine nella loro dépliant e nella loro informazione. Sì, ma certo, ma io penso che Bollicine... così come spumante 20 anni fa non l'abbiamo perso in un giorno, ci vorranno probabilmente un paio d'anni, per noi, figuriamoci per il consumatore. Però il consumatore oggi non chiama più spumante un Franciacorta, anche la signora Maria a cui facevamo riferimento poc'anzi, e ormai Franciacorta ha la sua identità, e quindi Bollicine sarà un termine che rimarrà a mio avviso per ancora qualche tempo. E se tutti ci aiuteremo a valorizzare le denominazioni per quello che sono, useremo il termine merceologico, che è spumante quando lo dobbiamo usare, ma la parola Bollicine, che ripeto abbiamo valorizzato noi 20 anni fa, non mi dà fastidio, e non è che è una guerra che Franciacorta fa alla parola, ma tende a fare cultura e valorizzare la propria denominazione. Grazie Maurizio Zanella, linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Ripescato Matteo da Verona, buongiorno Matteo. Sì, scusi, era cascata la linea, volevo solo precisare che anch'io, come produttore di uno spumante tipico dell'est veronese che è il Durello, Durello è l'uva, Durello è il vino. Cosa succede? Che la necessità di parlare di bollicina l'abbiamo perché la maggior parte delle persone intendono la bollicina come prosecco, Franciacorta e champagne. Nel momento in cui sei in una zona che sia un vitigno non così conosciuto, per identificare una bollicina a metodo classico, l'unico sistema è appunto parlare di bollicina con vitigno autoctono. Diversamente si fa fatica, per quale motivo? Perché io faccio delle degustazioni in azienda e mi trovo in difficoltà tante volte perché le persone pensano che prosecco sia una lavorazione, non un vitigno. Quindi bene, riuscire a fare chiarezza in questi discorsi non è proprio così semplice se non si ha una parola neutra che possa permettere di inserire altri vitigni. Grazie, grazie. Sentiamo Francesco da Verona, sempre da Verona. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Paolini e complimenti per la trasmissione prima di tutto. Io sono un diciamo bevitore appassionato profano, nel senso non sono un grande esperto. E mi scuso se non faccio riferimento ai nomi di chi ha parlato prima perché non li ricordo, sì. Però sono d'accordo con la denominazione corretta, diciamo da scuola di sommelier, però oggigiorno l'italiano è la lingua viva che si evolve, quindi bollicine, spumante, sono tutti termini corretti. Faccio un esempio che non c'entra niente col vino. Io adesso sono in macchina, sto passando davanti a un distributore dove c'è scritto diesel, non è il nome della benzina, è il nome del motore, però tutti l'italiano chiama il diesel la benzina. Sto facendo una rotonda, è sbagliato, sto facendo una rotatoria. Cioè, l'italiano è vivo, quindi se la parola spumante ormai è entrato nel linguaggio comune, certo, buona parte certo, dei professori bisogna usare quella. Francesco, ho detto prima che bollicine e bolla sul vocabolario non esistono riportate al vino, quindi ho spiegato anche prima che arcaicamente addirittura era portato all'acqua che sgorga dalle terme, quindi sicuramente è un termine nuovo, un neologismo praticamente. Bene, abbiamo con noi Fabio Piccoli. Fabio Piccoli è direttore di Trento Doc, quindi entriamo qui in un'altra area importantissima dal punto di vista degli spumanti. Voglio chiedere a Fabio Piccoli cosa ne pensa lui del termine bollicine. Beh, intanto buongiorno Davide a te e a tutti i radioascoltatori, ma io credo che la dichiarazione di Zanella forse dichiara finalmente la fine un po' alla diatriba attorno appunto all'identificazione della tipologia del metodo classico italiano. Finalmente entriamo a riconoscere al 100% l'importanza e il primato dell'identità territoriale, che è comunque l'elemento fondamentale per dare riconoscibilità a questa straordinaria patrimonio enologico del metodo classico italiano. E da questo punto di vista io credo che sarebbe opportuno e importante che questo orgoglio dei diversi territori di produzione del metodo classico italiano, da Franciacorta al Trento Doc, all'Oltrepò, all'Alta Langa, se ne approprino fino in fondo senza più complessi e paure. E quando parlo di identità e di orgoglio parlo anche della stessa ristorazione, ovviamente, perché spesso la confusione si genera anche all'interno delle carte vini, dove spesso e volentieri si legge, non so, sotto la definizione magari del prosecco, magari anche dei metodi classici italiani diversi, quindi che generi e che ci sia una confusione è un dato di fatto, però credo che sia importante che oggi finalmente si dichiari l'importanza dell'identità dei diversi territori produttivi. C'è un problema però, è un problema che ancora non se ne è parlato, che ovviamente i consumatori sono liberi di usare qualsiasi terminologia, ci mancherebbe, benissimo. Il problema è quando si va sulle questioni di posizionamento e di mercato. E qui il problema di riuscire a rendere identificabile, riconoscibile le peculiarità del metodo classico italiano dei diversi territori sia in Italia che all'estero è un problema oggettivo che tutti i produttori del metodo classico italiano hanno, e io in questa direzione lancio invece non tanto una provocazione ma uno stimolo a verificare se vi è la possibilità di aumentare con azioni anche di comunicazione collettiva, soprattutto all'estero ma anche in Italia probabilmente, delle iniziative in grado di far percepire le peculiarità del metodo classico italiano, perché altrimenti il rischio è che poi il consumatore le potrà chiamare bollicine ma poi non riesce a capire perché deve pagarla una un euro e mezzo e un altro magari 20 o 30 euro. Quindi questo è un problema di mercato, di posizionamento, di riconoscibilità del metodo classico italiano, della difficoltà di realizzarlo e della sua straordinaria qualità, che dovremmo trovare un modo per renderlo più riconoscibile. Bene, grazie a Fabio Piccoli. Abbiamo sentito che c'è, come posso dire, una scialuppa per lavorare comunemente su questo argomento. Andrea Grignaffini, che è un critico, direttore artistico di Spirito Divino, tu cosa ne pensi di questa, diciamo, di questa, come posso dire, querela che si è creata sul mercato dal punto di vista di questo termine bollicine? Ciao Davide, buongiorno a tutti. Devo dire che ha lanciato un sasso nello stagno Maurizio Zanella, e penso che prima pensavo che volesse andare un po' contro l'uso invalso, diciamo, della lingua italiana, e quello mi sembra una battaglia fosse di retroguardia. In realtà, leggendo bene il suo intervento, e non potevo dubitarne, in realtà vuole toccare dei tasti molto precisi, vuole parlare di comunicazione. Cioè, quindi in realtà il termine bollicina, che lo usi il cliente, va benissimo, ci mancherebbe che adesso si tolgano dei termini che sono diventati, oltretutto la bellezza del termine bollicina è qualcosa di evocativo, qualcosa che suggerisce all'immaginario collettivo qualcosa di sospeso, qualcosa di magico, quindi insomma è un termine bellissimo. Però noi addetti ai lavori, e questo faccio anche auto da fé, perché molte volte ci scappa detto bolle, bollicine, forse dobbiamo stare più attenti per cercare di dare ai territori d'eccellenza della nostra nazione e la dignità che ha, perché quanto siamo specifici molte volte nell'indicare anche i cremant, in Italia cerchiamo a volte di creiamo un po' di confusione, mentre si potrebbe essere, ripeto, molto molto pertinenti nell'utilizzo dei termini precisi. Sentiamo Marco dalla provincia di Savona, radioascoltatore, buongiorno Marco. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, Paolini. Il mio intervento è finalizzato a cercare un nome che sia un nome globale. Se noi vogliamo promuovere il prodotto italiano globalmente, dobbiamo trovare un unico singolo nome tipo champagne che funzioni in tutto il mondo. E scusi Marco, ma è proprio questo il punto, che non si vuole, nel senso che il prosecco è il prosecco, certo. E i vari territori sono i vari territori, è proprio l'opposto, sì, non si può trovare, sì, però... Lo champagne è un territorio, non è un nome di tutto il prodotto francese, attenzione, champagne è identificato con un territorio, così come Franciacorta è identificato con un territorio e Trentino è identificato con il Trento, è identificato con un territorio, quindi il nome globale proprio in questo caso assolutamente non bisogna andarlo a trovare, perché si ottengono dei risultati opposti di quello che vuole vogliono i produttori, e secondo me vuole anche l'identità, cioè dobbiamo dare un'identità ad ogni nostro prodotto, quindi credo che sia proprio il contrario. Mi spiace Marco contraddirla così duramente, ma sono alla fine, quindi ho capito il suo senso, ho cercato di rispondere, non lasciare il suo sasso appunto senza farlo così risaltare nell'acqua. Andrea Grignaffini, vuoi aggiungere qualcosa? No, penso che questo deve far riflettere un po' tutti i consorzi, e penso che anche l'intervento precedente da Trento sia veramente molto preciso. Sì, certo, sì. E quindi penso che Maurizio Zanella è un uomo di grande comunicazione, di grande intelligenza, e penso che da qui in poi ci sia da fare molto a livello di comunicazione. Il problema è un po' l'estero, che troviamo addirittura molte volte in carte i champagne sotto i prosecchi nei Franciacorta. Bisogna lavorare, ma è un lavoro duro e faticoso, perché è ancora compreso male dagli italiani, figuriamoci all'estero. Bene, grazie Andrea Grignaffini. Allora abbiamo chiuso questa trasmissione sulle bollicine. Io ricordo che domani 6 maggio nel chiostro dell'Abbazia di San Gregorio c'è un pranzo di beneficenza fatto da 11 stelle della cucina italiana. Ci sono ancora tavoli liberi, quindi chi volesse partecipare, il gusto per la ricerca, dove potrebbe chiamare e così trovare un tavolo e fare anche un'operazione intelligente e di beneficenza. Vi do appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero, e ogni giorno con la pillola del gastronauta alle 11.05 e alle 23.05. Buon weekend a tutti.